cosa dire, io lo dirò. Se mi dice cosa fare, io lo farò. Qualcosa di allegro, oggi io non ho più tempo.